La luna accompagna queste notti nere, nere, e io prometto che sarò sempre migliore. Troverò un amore, non mi farò imbrogliare. Farò quello che mi dice il cuore, amerò fino a morire. Di più, di più, di più, molto di più di quello che avrò. Io darò di più, di più, di più, molto di più. Farò quello che mi dice il cuore, amerò fino a morire. Di più, di più, di più, molto di più di quello che avrò. Io darò di più, di più, di più, molto di più di quello che avrò. Io darò. Di più, di più, di più, molto di più di quello che avrò.